Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, bentrovati. Parliamo questa settimana di un'associazione che ci darà lo spunto per approfondire altri aspetti della responsabilità sociale che di tanto in tanto sfioriamo e che oggi vogliamo focalizzare. Parliamo di un'associazione che si chiama Low Impact, vuol dire basso impatto, e questa volta è sicuramente la parte ambientale ancora ad essere al centro dell'attenzione, ma è un basso impatto differente, più ampio, come vedremo, orizzontale, ecco, che tocca molti aspetti. Sentiamo alcuni di questi. Rispetto ambientale? Di più. Risparmio energetico? Di più. Low Impact propone alle aziende di andare oltre le regole per fare business in piena responsabilità. Luogo di nascita? Tangeri. Data di nascita? 2012. Nome del sito produttivo? Automobili Renault. Emissioni dello stabilimento? Zero. Pompa Magna per gli occhiali Now. L'Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo gli ha riconosciuto il certificato di conformità plastica seconda vita. Ecco, qualcosa dal sommario l'abbiamo intuita su che cos'è o su qual è la linea dell'associazione Low Impact. Andiamo dentro, perché comunque è interessante come visione. Per una volta non c'è la definizione, come dire, limitata, verticale, no? Di un aspetto dell'attività di responsabilità sociale, che può essere appunto quello della solidarietà piuttosto che del risparmio energetico, ma una visione che si potrebbe definire olistica. Ecco cos'è Low Impact. Low Impact sta elaborando e disciplinare del risparmio ambientale, criteri che definiscono dettagliatamente per ogni settore merceologico, per le istituzioni e per i privati cittadini, quali siano i comportamenti concreti in grado di testimoniare un significativo impegno rivolto al risparmio ambientale. Non solo rispettare leggi, norme e regolamenti in materia, quindi. L'ammissione in associazione è subordinata all'esito positivo della verifica del rispetto dei disciplinari elaborati dal Comitato Scientifico e che costituiscono un'opera di classificazione di comportamenti pro ambiente unica nel suo genere. Quindi una sorta di certificazione, di doc dell'attività, del business ambientale, vero? Andrea Baracco è fra i fondatori di Low Impact, è così? Sì, è così. Diciamo che oggi la sensibilità nei confronti dell'ambiente è molto accresciuta. Le aziende stanno guardando a questo con un'ottica attenta anche agli aspetti di business, ovviamente. Tutto questo molto spesso fino adesso è stato mai regolato, non dico secondo le norme ISO 14001, che sono quelle che poi regolano questo discorso di requisiti di sistema di gestione ambientale, ma molto probabilmente si può fare anche qualche cosa di diverso e si può pensare ad essere un'azienda a basso impatto anche senza avere una certificazione ISO 14001. Infatti noi adesso alcuni di questi esempi li faremo grazie anche al tuo aiuto con particolare attenzione. Mi sembra che c'era proprio bisogno di un'altra associazione, chiamiamola ambientalista, no, evidentemente no, ma è evidente che Low Impact è qualcosa di realmente diverso. La proposta che voi portate avanti, e certamente non è di poco momento, è quella di resettare il business su basi di rispetto ambientale e quindi energetico. Assolutamente, diciamo che non siamo un'associazione ambientalista, le associazioni ambientaliste ci sono, svolgono un lavoro magnifico, hanno anche delle colorazioni politiche molte volte, ecco, noi non siamo queste, noi vogliamo parlare alle aziende, ma non solo, perché poi oltre alle aziende vogliamo che anche i privati cittadini facciano parte dell'associazione, perché sappiamo che bastano piccoli gesti quotidiani che reiterati nel tempo e fatti su un numero enorme di persone possono portare beneficio. Ecco, chi c'è? L'associazione nasce a Torino, giusto? L'associazione nasce a Roma. Chi sono alcuni dei protagonisti assieme a te, diciamo, di questa progetto? Ci sono delle aziende, alcune di quelle che tu anche hai citato, c'è Seat Pagine Gialle. Ci sono molte aziende che stanno in questo momento anche bussando alla porta, quindi abbiamo anche aziende di vari settori merceologici, quindi non solamente magari del settore della produzione, ma anche del settore dei servizi. Ci sono poi evidentemente rapporti con università e con esponenti del mondo accademico, perché è un'associazione che fa anche degli studi, valutazioni, linee guida, documenti, insomma, scienza, non soltanto business. Certo, il comitato scientifico a cui accennavate nella scheda radiofonica precedente evidenzia proprio come ci siano delle persone che appartengono ai mondi della scienza e non solo, ma anche a mondi legislativi che ci supportano in questo genere di attività. Andrea Baracco è anche responsabile della comunicazione di Renault, e in questa veste sei presente anche nell'ambito dell'associazione. Per tanti motivi, l'industria automobilistica evidentemente, come sappiamo, è al centro dell'attenzione sui temi del rispetto dell'impatto ambientale e del risparmio energetico. Ma c'è una storia particolare che vogliamo raccontare, che a maggior ragione definisce il perché Renault sia all'ambito dell'associazione Low Impact. Una produzione annua inizialmente pari a 170.000 veicoli per arrivare a pieno regime a 400.000 veicoli all'anno, il tutto senza emettere un grammo di CO2. Ecco la nuova fabbrica di Renault a Tangeri, in Marocco. Il sito, pronto a partire dal 2012, assicura un impatto ambientale a livelli mai raggiunti finora per una fabbrica di montaggio carrozzeria. Le emissioni di CO2 saranno ridotte del 98%, cioè di circa 135.000 tonnellate all'anno. Il traguardo è possibile grazie all'utilizzo di energie rinnovabili e all'incremento dell'efficienza energetica dei processi produttivi. L'impatto sarà comunque zero. Il 2% verrà infatti compensato con l'acquisto di crediti di carbonio ottenuti sempre dalla produzione di energia verde. La prima fabbrica di automobili a impatto zero. Di questi titoli lo sentiamo dire frequentemente. Mi chiedo, Andrea, se anche questa volta è un modo di dire o realmente è quello che abbiamo riprodotto in questa scheda, e cioè impatto zero reale, sia la verità tecnologica di questo impianto. È la verità tecnologica dell'impianto, soprattutto se poi teniamo conto che lo andiamo a costruire, lo stiamo costruendo, perché è da 2 anni che è partita la costruzione di questo impianto, in un'area che è il Marocco, dove sicuramente non tutte le aziende sono così attente a quello che sono i termini di rispetto dell'ambiente. E mi viene anche da dire che ovviamente non è neanche in Marocco che c'è il maggior problema dal punto di vista ambientale, ovviamente, no? Sarebbe meglio farlo in Lombardia, però è chiaro che Renault non ha previsto di costruire uno stabilimento in Lombardia. Beh, diciamo che gli stabilimenti che noi abbiamo sono in tutti i continenti, dall'Africa all'America del Sud, l'Europa ovviamente, e anche poi quelli che sono i Far East. Stiamo costruendo questo in Africa, in Marocco, abbiamo già uno stabilimento produttivo in Marocco, avevamo la necessità di ampliare lo stabilimento per aumentare la capacità produttiva, e abbiamo deciso di fare invece uno stabilimento completamente nuovo in un altro sito che rispettasse al massimo la sostenibilità ambientale per quanto riguarda l'industria automobilistica. Comunque fa piacere leggere o ascoltare informazioni di questo tipo. Ci si chiede anche come mai questo non sia avvenuto prima, no? Perché tecnologicamente erano percorsi sostenibili, non mi riferisco a Renault, mi riferisco a tutti, sostenibili anche 10 anni fa probabilmente, però ben venga una iniziativa di questo tipo, perché sicuramente sarà replicata anche altrove. Cambiamo velocemente argomento, Andrea Baracco rimane con noi e ci aiuta a commentare, perché passiamo ad un'altra azienda che ha aderito a Low Impact e che produce occhiali di plastica riciclata. Now Ottica ha realizzato i primi e al momento unici occhiali da vista e da sole in plastica riciclata. Il processo di produzione di queste collezioni è certificato dall'Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo, che gli ha riconosciuto il certificato di conformità plastica seconda vita categoria B, specifica per il riciclo di materiali preconsumo. Nella logica low impact si fa altro. Vengono ridotti al minimo gli imballaggi, si utilizzano shopper in biocartene. Il montaggio degli occhiali e la colorazione delle lenti vista sole vengono affidati ad aziende specializzate che garantiscono uno smaltimento responsabile degli scarti derivanti da queste lavorazioni. Fabrizio Broggi è con noi. Buongiorno. Ecco, lei è l'uomo che ha creato Now Ottica. L'idea, la struttura, i negozi, tutto è tutto frutto del suo lavoro e del suo coraggio, diciamo. Direi che è frutto delle capacità della squadra e dell'incoscienza mia, va? Mettiamola in questa maniera. Quanti anni ha Now Ottica? Da quando è nata? Now è nata nel 2005 con il primo negozio. Come idea invece ovviamente nata prima. Ma è come, ed è nata nel 2005 come negozio, le dice, cioè con questo filone di negozio, quando abbiamo iniziato a testare il concetto di un prodotto di una catena del valore nell'ottica diversa. Ecco. Noi vendiamo occhiali di qualità e design a un prezzo che è mediamente 50% di quello del mercato. Infatti noi nella scheda abbiamo scritto che l'impresa si definisce cheap and chic, e questo è avvenuto in tempi non sospetti, che nel 2005 la crisi non neanche era preannunciata, quindi era proprio una scelta. Era tutto molto urgente, non ancora. Però noi eravamo convinti che fosse opportuno, che fosse necessario dare più scelta ai clienti e offrire qualche cosa di nuovo, qualcosa di diverso. Beh, e anche, ci pare di capire, anche con questa scelta di basso impatto, che poi qualifica la vostra presenza nell'associazione, ma che è una scelta di business a basso impatto, appunto. Sì, abbiamo cercato di unire le motivazioni economiche, l'idea di un successo, di un risultato economico, con un, chiamiamolo come un successo se vogliamo personale, di soddisfazione personale. Abbiamo cercato e stiamo continuando a fare cose che ci piacciono e che ci fanno stare bene. E ha funzionato questo? Ha funzionato Broggi? Sì, sta funzionando, perché è tutto molto semplice. Alla base c'è buon senso, le persone, specialmente le donne che sono i nostri principali clienti, lo capiscono con facilità e diventano facilmente i nostri clienti e poi ritornano. Questa è la cosa che poi ci fa più piacere. Quanti negozi, quanti punti vendita avete in questo momento con questa catena? Quanti in sono? In questo momento siamo a 32 negozi e ne abbiamo un'altra decina in apertura per adesso. Beh, quindi mi pare che sia proprio una dichiarazione di successo. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Stiamo parlando di low impact, cioè del fare business a basso impatto, e stiamo scoprendo che Renault, c'è Andrea Baracco con noi, sta completando la costruzione di uno stabilimento a impatto zero, totalmente e realmente a impatto zero, non come estetica ma come struttura, come percorso, come filiera produttiva in Marocco. E con Fabrizio Broggi stavamo contando il numero di negozi cheap and chic della sua Now Ottica, che continua a crescere. Occhiali che mi ricordano un po' la logica, non lo so, di Ikea, piuttosto che dell'hard discount nella grande distribuzione, quindi dare un prodotto, un servizio, ma al di fuori del superfluo, di quello che costa e che non rende concretamente. Sì, senz'altro siamo abbastanza vicini come logica a quella di Ikea, di Ikea piuttosto che di altre insegne monomarca in grado di abbinare un'alta qualità e design a un basso prezzo. forse un po' meno vicini a logiche di discount. Perché il discount, come dire, in qualche modo sminuisce il valore della marca, dice, no? Mentre invece sì, lei... perché non sempre c'è una qualità garantita all'origine. Noi per esempio abbiamo il nostro livello di qualità e di servizio che è fornito dalle nostre persone, dai nostri ottici diplomati, è tale per cui noi diamo per esempio un soddisfatti o rimborsati senza nessuna spiegazione per 90 giorni, tanto per dare un po' un'idea. Andrea Baracco, quello che mi piace della discussione con Broggi, a parte l'abilità con cui ha costruito dal nulla questo business, è anche la facilità, senza ipocrisie, con cui si parla di business nel rispetto dell'ambiente e nel risparmio energetico, non di aspetti sociali o culturali. E questa è la chiave per uno sviluppo reale di queste nuove tendenze. Ma direi assolutamente sì. Noi abbiamo dei disciplinari che rappresentano un aspetto fondamentale dell'impianto progettuale dell'associazione. Questi disciplinari si dividono in criteri obbligatori e criteri di ulteriore analisi e miglioramento. Questo significa che non vogliamo costringere l'imprenditore a dover fare delle scelte che magari sono drammatiche per il suo business, per poter dire io sono l'OIMPA. Noi iniziamo a dire, inizia a fare un percorso che deve essere un percorso virtuoso. Chiaramente ci sono dei paletti di un certo tipo per l'entrata e poi c'è un percorso che viene segnato nel tempo. Now Optica, Broggi, questo sicuramente fa parte del suo patrimonio di imprenditore, però volevo sottolinearlo come giornalista e come esperto di comunicazione. La grande distribuzione, perché questo lei è con i suoi negozi, ha anche delle responsabilità e delle potenzialità importanti in aspetti divulgativi, cioè nell'educare il consumatore, no? A queste nuove frontiere del risparmio energetico e ambientale che sono vitali nel periodo di crisi per, come dire, alleggerire e rendere più sostenibili i bilanci familiari. Lei si muove in questo senso? Sì, direi di sì, è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni con azioni concrete anche di comunicazione, per cui cerchiamo di dare sostanza alla nostra idea che dobbiamo lasciare un mondo che abbia il minore impatto possibile. Direi che fatto in maniera possibilmente organica e sempre con buon senso. D'altronde è il vostro stesso posizionamento che lo pretende. Grazie e in bocca al lupo Fabrizio Broggi per la sua Now. Grazie mille, a presto a tutti voi. C'è un'altra esperienza che tocca un punto sensibile sotto molteplici aspetti, che è la carta, cioè usare la carta soprattutto quando potrebbe non sembrare più necessario nell'universo digitale è sicuramente una responsabilità importante. Ed è per questo che SEAT Pagine Gialle ha voluto, con l'adesione allo Impact, ma anche con la politica che adesso Luisa Piazza ci descriverà, entrare a far parte di questo circuito virtuoso dell'associazione di Low Impact. Luisa Piazza è con noi, salve. Salve, buonasera. SEAT Pagine Gialle, contrariamente a quello che si può immaginare, non punta tutto esclusivamente sulla carta, perché quelle sono, no? Le pagine gialle sono nell'immaginario collettivo della nostra memoria. C'è una politica precisa di risparmio che punta ad obiettivi importanti, mi pare di aver capito. Sì. Sì, assolutamente sì. E in premessa direi che SEAT Pagine Gialle è sicuramente l'editore degli storici elenchi del telefono di pagine gialle, pagine bianche di tutta città, ma è anche vero che noi siamo un'azienda sempre più multimediale, abbiamo tutta una serie di prodotti che vanno dall'online ai servizi vocali, ai servizi tramite accesso mobile. In questa logica noi riteniamo che comunque l'azienda, la nostra missione, il business che noi sviluppiamo sia costituito da entrambe le componenti, una componente più tradizionale che ha ancora un largo pubblico al quale si rivolge, che è quella della carta, e una componente più innovativa. Venendo nello specifico al tema legato alla carta, SEAT è da anni attenta al tema dell'impatto sull'ambiente e all'uso efficace ed efficiente delle risorse, tant'è che già da più di 15 anni noi utilizziamo buona parte della materia prima cioè della carta che proviene da cartiere, da fornitori che sono certificati, sono fornitori scandinavi in massima misura, che devono garantire dei processi produttivi di un certo tipo. Questo vuol dire che voi comprate da cartiere che poi dopo attuano procedure di rimboschimento, come abbiamo letto, no? Sì, assolutamente. Quindi compensano sì. L'uso della carta. Inoltre noi utilizziamo gli elenchi che noi distribuiamo ogni anno, contengono una percentuale fra il 30 e il 40% di fibre riciclate, e inoltre a fine vita degli elenchi che vengono distribuiti alle famiglie e alle aziende c'è una campagna di recupero delle copie utilizzate. Che poi riutilizzate, quindi? Sì. Recuperate quella carta. Recuperate. Sì. Quindi questo è un primo tipo di impegno che va avanti da anni. Dall'altro lato, recentemente abbiamo aumentato un po' l'attenzione alle tematiche ambientali. Per esempio siamo parte integrante di un progetto europeo, a parte aver sottoscritto a livello sempre europeo un codice di autodisciplina insieme alle altre aziende che come SEAT sono attive in questo mercato dell'editoria e della multimedialità, e poi dall'anno scorso siamo direttamente coinvolti in un progetto che vede attiva tutta la filiera della carta, quindi con Assocarta, Assografici, ma anche grandi aziende, grandi realtà editoriali, che si chiama Print Power. L'obiettivo di questo progetto è di rendere evidente al pubblico la sostenibilità di questa industria. Sostenibilità non soltanto in termini di ritorni di comunicazione sugli investimenti pubblicitari, ma anche e soprattutto in termini di sostenibilità ambientale. Il nome di questa campagna che stiamo per lanciare e che vedrà la prima pubblicazione sugli elenchi di SEAT a partire da quelli in distribuzione a novembre si chiama Two Sides, cioè due lati, il lato verde della carta, e cerca di dimostrare fatti e cifre alla mano che ci sono dei luoghi comuni sulla carta che vanno smentiti. Senta. Ma la sua azienda è un'azienda che incuriosisce un po' da questo punto di vista, perché sembra comunque che in un futuro, magari lontanissimo, SEAT Pagine Gialle si trasformerà, un processo che la porterà alla digitalizzazione complessiva. Lei lo pensa anche lei che sarà così? Guardi, io credo che il dibattito, che oggi è un dibattito non solo presente in SEAT, ma un po' in mercato, dai giornali in avanti, è un dibattito sicuramente di estremo interesse. Sono abbastanza convinta che non ci sarà una scomparsa totale di un mezzo. Noi la storia della comunicazione credo che sia stata fatta più da evoluzioni che non da scomparse totali. Se ricorda, Video Killed Radio Star, se alla fine la radio come mezzo pubblicitario continua, e come mezzo anche di informazione, di comunicazione, comunque continua ad essere centrale e importante, nonostante siamo in un'era di visuale, assolutamente. Digitale totale. Si tratta di reinventare contenuti e reinventare forse le modalità di distribuzione. Per cui non credo che sia questo il caso, cioè che la carta scompaia del tutto. E comunque chiedo ad Andrea Baracco adesso di aiutarci a chiudere questa puntata. Comunque anche in questo caso ci sono dei processi evolutivi fortissimi, no? Cioè comunque SEAT Pagine Gialle, quella dei volumi, no? Quella della carta, che adesso ha innescato questi processi virtuosi di fibre riciclate, di procedure di rimboschimento, di codici di autodisciplina, che fino a pochi anni fa forse esistevano già, ma comunque oggi sono in primo piano, in prima linea, direi. Beh, le aziende stanno mettendo sempre più attenzione a questo, anche perché la sensibilità dei consumatori è molto sviluppata in tal senso. Rientro anche un po' nella mia area, quindi di chi produce automobili, ma pensiamo semplicemente al mobility management o le ottimizzazioni legate al trasporto delle merci che si possono fare. Oggi anche questo è un'area a cui le aziende sono molto attente e guardano non solamente le prestazioni velocistiche del mezzo o le prestazioni di sicurezza del mezzo, ma guardano anche ad esempio il modo con cui è costruito, la quantità di materiale derivante da riciclo che è dentro la vettura, le emissioni di CO2, che sono un indicatore molto importante per capire anche quanto poco consuma la vettura. Grazie Andrea Baracco, grazie di averci accompagnato in questo viaggio nello Impact, e grazie a Luisa Piazza che ci ha spiegato molto bene come è possibile conciliare l'uso della carta con il rispetto ambientale. Noi ci risentiamo, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Grazie ancora, grazie anche ad Anita Panizza in redazione e a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che Ferribot si può riascoltare dal sito www.radio24.it. A presto.